quando va, ricomincia a correre tra speranza e polvere. Tutto è silenzioso, ricomincia a vivere la voglia di esistere. Tutto è convinzione, volontà e passione, spreme il denti bricio. Tutto il dolore dal tuo petto si versa come il sacrificio del tempo che ora scivola di mano e tutto intorno sta in agguato immobile come un fermo immagine buio e silenzioso. Colazione e allungamento, ambizione e fallimento, rabbia e ostinazione, forza e impegno. Ehi, fuori che tempo fa? Non son sicuro più, fa un freddo qui dell'anima, ma sento che è possibile raggiungere quel tempo che adesso va più lento. Tutto è appeso a un chiodo, ma il cuore batte che un martello, la gamba screccia sul terreno, la pioggia schizza fredda dal suo viso e il suo entusiasmo va, ricomincia a crescere.